Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuti a una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è Aladdin, film del 1992 ed è il 31esimo classico Disney. Il film si ispira ad un racconto dell'antica raccolta Le Mille e Una Notte, con il dovuto riadattamento disneyano. Il film è infatti ambientato nella città medio orientale di Agrabah, governato dal Gran Sultano, padre della principessa Jasmine, che vive segregato nel palazzo. Il Gran Visir del Sultano, Jafar, si vuole impossessare della leggendaria lampada magica che si trova nella Caverna delle Meraviglie, ma per poterci entrare ha bisogno del cuore di una persona umile ma valorosa. Questa persona è il nostro protagonista, Aladdin, che è uno straccione che per caso conosce la principessa Jasmine, scappata dal palazzo, e di cui si innamora. Jafar decide di catturare Aladdin e convincerlo a trovare la lampada magica. Ma appena Aladdin capisce dei perfidi piani del visir, decide di impossessarsene e scopre i poteri della lampada. Infatti all'interno si trova un genio, che è intrappolato e deve per forza eseguire i desideri del suo padrone, e decide quindi di essere trasformato in un principe, dato che i desideri non possono riguardare l'amore e la morte. Aladdin, trasformato adesso in un principe Ali, decide di conquistare Jasmine, che però lo riconosce e quindi non cade ai suoi piedi. Jafar però non riconosce Aladdin e quindi lo vede come un altro rivale e decide di impossessarsi della lampada. Infatti si approfitta degli screzi che ci sono fra il genio e Aladdin, a causa della cupidigia di quest'ultimo. Il visir prima desidera di diventare il sultano di Agrabah e poi un potentissimo stregone e rapisce Jasmine ed esilia Aladdin. Aladdin però riesce a ritornare e quindi ingaggia uno scontro finale con lo stregone, di cui scopre anche il suo più grande punto debole, ovvero la sua sete di potere. E quindi gli rivela che fondamentalmente è il genio molto più potente di lui, perché può esaudire tutti i desideri del mondo. Quindi Jafar, come ultimo desiderio, decide di essere trasformato in un genio. Ma non si ricorda che in realtà i geni sono sottomessi ai propri padroni. E quindi Aladdin e il genio, finalmente riconciliati, decidono di relegare Jafar all'interno della Grotta delle Meraviglie. E nel finale Aladdin e Jasmine si sposano, e il genio, finalmente libero dalla lampada, decide di viaggiare in giro per il mondo. Il film, a livello di realizzazione, ha visto un'accurata ricerca delle città medio orientali, soprattutto iraniane ed arabe. È diciamo un po' una fusione fra questi due mondi, perché non vi è un vero e proprio punto di riferimento. Tra l'altro questa cosa ha causato non poche polemiche all'interno della comunità araba e simili, anche perché i personaggi erano considerati troppo europeizzati. Infatti i personaggi in sé per sé come design sono molto semplici, hanno delle caratteristiche non molto affini ovviamente all'etnia araba, sono un pochino più una stilizzazione, tranne Jafar invece è molto più stagliato e diversificato rispetto agli altri personaggi. Il genio invece è stato pensato più come una spalla comica. Il film, benché le polemiche che ha suscitato, in realtà ha ricevuto un'ottima critica e soprattutto ha incassato ben 32 milioni di dollari nella prima settimana di uscita. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.